è tempo che Zoo 2018, l'idea di successo, alza la radio e stai connesso. 105 my fire, wanna fire, desire, your radio. E adesso lo Zoo 105 ce l'ha grosso. C'è Lisei con Paolo Noise e Pippo, poi c'è Spain con Dona Alba e Wender, c'è i Pagliacci con Mazzoli al comando, teste di cazzo allo sbando.